Sono Marco Servettini, mi occupo dell'accoglienza dei profughi per la Caritas. Abbiamo indetto questa conferenza stampa ad un anno dall'inizio dell'accoglienza dei profughi della cosiddetta emergenza Nord Africa, che è iniziata nell'aprile 2011, inizialmente con l'arrivo dei flussi dalla Tunisia e poi soprattutto con quelli dalla Libia, dovuti al conflitto che c'è stato in Libia. Ad un anno da questa accoglienza ci sembrava importante dar conto alla città di quello che è successo in questo anno e di quali sono le prospettive. La conferenza stampa è stata indetta da Caritas e altri che stanno collaborando per una parte dell'accoglienza. Abbiamo però invitato anche altri soggetti che stanno facendo accoglienza, in particolare il comune di Como, qui presente la dottoressa Gualdoni, e la cooperativa che gestisce il centro accoglienza a Prestino, per cui c'è il dottor Cabiaghi. Darei la parola a Luisa Senso, che delle Afriche introduce. Buongiorno a tutti anche da me, e grazie proprio perché, come diceva Marco, la nostra era proprio l'esigenza di comunicare, di dire quello che abbiamo fatto, perché abbiamo messo insieme le nostre forze fin dall'inizio per poter affrontare quella che si presentava come un'emergenza importante per il nostro territorio. Poi i numeri non sono stati così grandi come quelli che ci aspettavamo, sono stati comunque numeri considerevoli, persone che noi abbiamo accolto, innanzitutto perché sentivamo l'esigenza di accogliere persone che scappavano da situazioni così drammatiche, mettendo, come dicevo, insieme le nostre risorse dal punto di vista non solo economico, ma anche dal punto di vista delle risorse umane, delle competenze, di quello che nel frattempo avevamo imparato a fare, accorgendoci giorno per giorno che lavorare insieme faceva la differenza, perché voleva dire riuscire ad intervenire insieme negli aspetti più complessi e complessivi. E questo abbiamo fatto. Ci eravamo proposti fin dall'inizio di non fare un'accoglienza soltanto di primo livello. Non ci interessava solo dare un tetto e un piatto caldo a queste persone, ma ci interessava entrare in relazione con loro e dargli degli strumenti che potessero servirgli per il loro futuro. Quindi, a partire dal supporto nelle pratiche burocratiche, nell'accompagnamento, nel fargli sentire persone non numeri, abbiamo improntato la nostra accoglienza sulla logica della solidarietà e della condivisione. Abbiamo messo in atto percorsi formativi sui quali ci siamo impegnati fin dall'inizio, perché ritenevamo giusto che, indipendentemente da dove queste persone avrebbero passato la loro vita, era importante dare loro una cassetta per gli attrezzi per affrontare il mondo, a casa nostra come a casa loro o in qualsiasi altro posto del mondo. E qui l'abbiamo fatto, poi Marco entrerà nei dettagli dei numeri e dei percorsi fatti. E abbiamo cercato di includere anche i profughi che non erano affidati a noi, che erano affidati ad esempio anche agli alberghi, piuttosto che in altre situazioni, per interventi anche per loro, perché non ci sembrava giusto fare distinzioni anche perché su questo abbiamo ricevuto da subito la sollecitazione del prefetto, che in questa fase sia lui direttamente, sia tramite il dottor Galli, che purtroppo questa mattina aveva un impegno, non ha potuto essere qui con noi. La prefettura ha svolto proprio un ruolo di coordinamento importante in questa fase, ci ha sollecitato davvero fin dall'inizio a fare in modo che queste persone non stessero con le mani in mano, perché si fa in fretta a parlare di sicurezza, ma la sicurezza si acquisisce quando una comunità si prende cura nel suo complesso di quelle che possono essere le sacche di vulnerabilità che ha al suo interno. E quindi queste persone, solo se vengono inserite in un percorso, se capiscono veramente dove sono arrivati, che non è il paese del Bengodi, che anche noi abbiamo difficoltà e stiamo vivendo una crisi epocale, e quindi essere franchi e sinceri nei loro confronti, dicendo che non potevamo promettere la Luna, che innanzitutto loro si dovevano impegnare dal punto di vista della conoscenza delle norme, dal punto di vista della conoscenza della lingua italiana, dal perseguire percorsi formativi che potessero essergli utili. Abbiamo insistito tanto anche con il comune di Como perché si potesse impiegare queste persone in lavori socialmente utili, nella cura del verde dei parchi della città piuttosto che nella raccolta differenziata. Alcuni comuni avevano la possibilità nel loro statuto, nel loro regolamento di fare questa cosa. Visto entrare prima il sindaco di Uggiate Trevano, Uggiate è uno di questi che ha impiegato i profughi in attività di volontariato sul proprio territorio. Questa sarebbe stata una possibilità veramente importante per queste persone, che invece non è stata sfruttata adeguatamente. Ecco, io dopo questa introduzione passerei la parola a Marco per entrare nei dettagli di quello che è stato il nostro lavoro di questi anni, questo anno. In questo anno per ora. Ho lasciato una relazione ai giornalisti, abbiamo fatto un po' un racconto di quello che è stato quell'anno. Partendo dai numeri, è stata fatta un'accoglienza a livello nazionale di 22.000 profughi, in Lombardia sono circa 3.000 e nella provincia di Como sono poco più di 200. Nello specifico, come Caritas, abbiamo anche in gestione alcuni profughi e alcune decine in Valtellina, ne seguiamo circa un centinaio, però qui focalizziamo il lavoro fatto con le ACLI in provincia di Como. A Como ne abbiamo seguiti in tutto 67, attualmente ne abbiamo 62 in varie strutture. Il primo dato importante che vogliamo sottolineare è che non c'è un grosso centro di accoglienza che li tiene tutti qui a Como, da altre parti ci sono anche centri molto grandi, ma questa è stata una caratteristica fondamentale per un tipo di accoglienza un po' più diffusa, dove ci potessero essere delle comunità, parrocchie o altri enti che potessero offrire un'accoglienza anche più attenta ai bisogni piuttosto che il grande dormitorio. In effetti questa è stata anche una caratteristica dell'accoglienza a livello nazionale, per cui se vi ricordate dopo gli sbarchi forti a Lampedusa c'è stato un grosso accentramento iniziale a Lampedusa stessa, poi sono stati fatti dei campi Manduria in Puglia, ma hanno visto che quell'approccio lì non funzionava, per cui il ridistribuirli in modo proporzionale nelle regioni è stata una presa di responsabilità che poi è ricaduta su ogni territorio, dalle regioni alle province sono stati distribuiti in base agli abitanti, e questo effettivamente è stato un aspetto che ha funzionato. Capite benissimo che tenere 300-400 persone ammassate in un luogo è un problema, e dove ci sono stati problemi in questo anno è perché c'era questo tipo di ammassamento. Da dove vengono i profughi è un altro dato fondamentale, arrivano dalla Libia ma non sono libici, sono rarissimi, qua a Como non ne abbiamo, forse qualcuno ne ha uno ma non ce ne sono. Sono dell'Africa subsahariana o dell'Asia, anche qui avete dei dati, 75% dall'Africa e 25% dall'Asia, in particolare da Roma. Per noi dal Pakistan significa, sono persone, adulti, a volte con famiglia, che erano in Libia per lavorare o per sostenere la famiglia nel loro paese di origine. Arrivando con questa emergenza, lo Stato italiano ha deciso di farli entrare come richiedenti asilo politico, ma, e questa lo sottolineo, è una scelta che ci portiamo dietro ancora oggi, perché l'asilo politico viene chiesto rispetto a problemi nel paese di origine. A quanto abbiamo spiegato ai nostri pakistani, ai nostri nigeriani, che richiedere l'asilo politico significava rivendicare verso il Pakistan, verso la Nigeria, quindi se avesse ottenuto anche l'asilo significava per esempio non tornare nel proprio paese, sono rimasti abbastanza spaesati. Capite che dopo un viaggio per arrivare a Lampedusa sono visti firmare dei documenti, non sono stati istruiti per capire che cosa stavano firmando. E poi dopo ci torniamo su che cosa significa poi questo. L'accoglienza è stata messa in gestione dalla Protezione Civile, anche questa è stata un'anomalia che però, come dicevo prima, c'è da sottolineare che ha prodotto questa diffusione sul territorio, ma tipicamente la Protezione Civile non è l'ente normalmente che dovrebbe gestire questo tipo di emergenze. La Protezione Civile si è avvalsa delle regioni, purtroppo la Regione Lombardia non si è presa carico di questa responsabilità, e il soggetto che se ne è preso carico è la prefettura di Milano. E per cui l'azione che stiamo facendo è, come Caritas, è con una convenzione che tiene dentro tutte le Caritas lombarde, capofila la Caritas Ambrosiana, e questo ci ha permesso perlomeno di avere delle relazioni facilitate, anche dirette col soggetto attuatore. Si parlava prima che altri enti stanno faticando per esempio ad avere i fondi. Noi riceviamo mensilmente i fondi, li abbiamo ricevuti fino a ottobre. Il sostegno che lo Stato sta dando per queste accoglienze è di tra i 40 e i 45 euro giornalieri a persona, che non vengono dati ai singoli profughi, ma vengono dati agli enti che li accolgono. Ci sono dei protocolli che definiscono il tipo di servizi che devono essere forniti. Nello specifico la Caritas ha una convenzione da 45 euro, 40 euro per i servizi di base, quindi vitto, alloggio, genere di prima necessità, e 5 euro per i servizi di integrazione, scuola di italiano, e accompagnamenti, orientamenti vari. Quindi il flusso di denaro che è stato creato, al di là del fatto poi che lo stiamo ricevendo in che misura, però che comunque è stato stanziato per questa operazione, è molto elevato. Tipicamente anche come Caritas non siamo abituati a avere questa copertura, e abbiamo fatto la scelta da subito di destinare, non siamo un albergo, molti profughi sono ospitati anche in albergo, dove l'albergo prende quella quota definita per l'accoglienza base. Noi accogliendo in parrocchie, in altri enti, ovviamente riusciamo a fare delle economie anche importanti, ma abbiamo fatto la scelta da subito, con un accordo interno tra tutti gli enti, di destinare fino all'ultimo centesimo all'accoglienza profughi, quindi al loro accompagnamento. Questo ci ha permesso quindi di sviluppare dei servizi aggiuntivi di accoglienza, al di là di quelli base, servizi integrativi che hanno riguardato una fase iniziale, scuola di italiano, che sta andando comunque ancora avanti, vari corsi di formazione che hanno il doppio significato: da una parte tenere anche occupate queste persone, può sembrare banale, ma questi profughi sono stati in questo anno come turisti forzati, e questa è una delle prime conseguenze di questo status di richiedente asilo politico. Quindi nel loro status non hanno potuto lavorare, e quindi sono una difficoltà anche a fare dei percorsi di attivazione. E poi testarli, perché erano comunque dei lavoratori in Libia, ma poi lavorare in Libia con delle competenze non è equivalente a lavorare in Italia. Quindi abbiamo fatto diversi corsi, manutenzione del verde, collaboratori domestici, falegnameria, adesso è in atto un corso di aiuto cuoco, partirà un corso di pianificazione e ancora un altro corso di manutenzione del verde. Quindi con tutti i nostri accolti siamo riusciti ad offrire dei percorsi che gli hanno dato delle competenze e l'hanno testato anche su come si sta su un posto di lavoro, comunque su un luogo più istituzionale, diciamo. E il lavoro grosso che stiamo facendo in questi ultimi mesi, da una parte l'accompagnamento alle commissioni, cioè incontri in tribunale a Milano, dove viene vagliata la richiesta di asilo politico. Ovviamente, per i motivi che dicevo prima, sono fuggiti da una guerra, non sono fuggiti dal loro paese perché avevano problemi lì. La buona parte, oltre il 60% delle risposte sono negative, sono dei dinieghi. Per cui da qui si sta sviluppando, da una parte, tutto un lavoro di accompagnamento per fare ricorso. Noi abbiamo creato un pool di avvocati con i quali stiamo facendo, per chi riceve il diniego, stiamo facendo ricorso, cercando di raccogliere anche più materiale per dimostrare eventuali problematiche. Ma questo va anche di pari passo con una pressione che a livello nazionale stanno facendo tutte le realtà di accoglienza, affinché si faccia quello che è stato già fatto per i tunisini, cioè un permesso umanitario per motivi umanitari, un permesso di un anno. È stata la scelta fatta nell'ottobre scorso, che ha permesso di togliere dall'ansia i tunisini, ma non è solo un problema di ansia, è un problema Il fatto è che noi abbiamo già qui accolto delle persone, ci stiamo lavorando da mesi, e il rischio è che se non abbiamo una copertura, uno status che li regolarizzi, rischiamo di lavorare a produrre dei clandestini. Quindi un motivo importante per cui abbiamo fatto i ricorsi è anche perché, purtroppo dobbiamo dirlo, dobbiamo anche temporeggiare nella speranza, nell'attesa. La promessa c'è stata fatta, ma a quanto pare il governo ha troppe cose a cui pensare, non riesce a prendere in carico anche questa, di dare questo permesso umanitario che ci libererebbe noi, ma anche lo Stato, tutto l'apparato giudiziario, di un lavoro grosso e immenso. Quindi noi invece che lavorare per l'integrazione lo facciamo, ma dobbiamo anche impegnare risorse per questo accompagnamento giudiziario che nasce per questa autonomia. Poi se volete, comunque si trova anche su internet, lo facciamo avere, ci sono degli appelli da tante organizzazioni nazionali che stanno facendo pressione in questo senso. Una pressione che va avanti ormai da mesi. Ci sono Caritas che hanno anche provato a far pressione sulle prefetture dicendo: se non ci date uno status che ci permette di lavorare, noi vi lasciamo i 200, i 400 profughi, vi lasciamo in gestione e voi Stato, poi vediamo cosa fate. Quindi questo è un consigliere che dobbiamo dare. Lavoriamo in autonomia, ma invece che spesso essere accompagnati, aiutati da quello che è l'apparato statale, ci crea anche dei vincoli, qualche problema ce lo crea. L'altro lavoro importante che stiamo facendo, soprattutto con chi sta ricevendo dei permessi, sono pochi, sono in tutto una decina quelli che hanno un permesso oggi, stiamo facendo un accompagnamento al lavoro, quindi orientamento al lavoro. Attenzione però che non stiamo facendo, stiamo cercando però di svincolarci dall'assistenzialismo il più possibile, per quanto sia faticoso, perché comunque tenere persone per un anno in questo stato, appunto come dicevo, turismo forzato, non li aiuta, però loro hanno voglia di lavorare, hanno voglia di crearsi un percorso, una vita qua in Italia, pensiamo che abbiano anche il diritto, e quindi stiamo cercando di dargli gli strumenti affinché loro possano cercarsi un lavoro. Al tempo stesso stiamo cercando anche di attivare dei tirocini, indicativamente di 3 mesi, in base alle competenze, in base anche al tipo di lavori che possono avere anche un futuro, e soprattutto con chi ha famiglie. Ci sono delle famiglie, quindi con i padri di famiglia che hanno a carico bambini piccoli, quando finirà questa emergenza che ci copre anche finanziariamente, agli adulti potremo anche dire faremo il possibile, ma non c'è più la copertura, ma famiglie con bambini non potremo comunque abbandonarli in mezzo a una strada. Quindi stiamo facendo lo sforzo soprattutto con loro. Abbiamo già attivato 7 tirocini, siamo attivi da inizio anno in questo senso, dove è praticamente una borsa lavoro formativa, dove diamo comunque un piccolo incentivo a queste persone, che spesso poi o le tengono da parte i soldi, o le rimandano in famiglia nel paese di origine. Un piccolo incentivo anche perché dopo tutti questi mesi loro comunque hanno bisogno di sentirsi anche gratificati in quel senso. Due cose sulle criticità, in parte sono già venute fuori, quella dello Stato sono già sottolineata, e l'altra è quella della disparità poi di trattamento anche sullo stesso territorio. Sicuramente una contraddizione che viviamo lavorando da anni su tanti tipi di emergenze è che per questa emergenza c'è una copertura finanziaria forte, per altre emergenze il welfare sappiamo come riesce a non rispondere. Però anche all'interno abbiamo sul territorio, per esempio in particolare l'hotel Baradello, che ha gestito fino a una quindicina di profughi, la signora Spalla della Croce Rossa che li segue, mi ha contattato prima che non riusciva a venire, comunque manda i suoi saluti. Abbiamo collaborato in modo forte e gratuito e stiamo offrendo questi servizi anche a questi profughi, perché altrimenti sarebbero stati abbandonati. Loro lì hanno solo la copertura dei servizi minimi di accoglienza, vitto alloggio, per cui stiamo facendo gli accompagnamenti per i ricorsi, ne abbiamo inserito informazioni nelle nostre proposte formative. Siamo comunque in dialogo anche con le strutture del comune, che ha un altro tipo di gestione. La taverna sono passati adesso a occupare da ottobre, mi sembra, il centro di accoglienza di Prestino, che da diversi anni era lì pronto, con varie polemiche ma non veniva usato, almeno hanno comunque un bel luogo, in cui, un luogo decente in cui stare. Le prospettive sono quelle del sostegno, però del sostegno all'autonomia con prospettive, dicevamo prima cosa ne sarà dopo il 31 dicembre. C'è una copertura di questa emergenza che va fino al 31 dicembre 2012, probabilmente poi finirà. Non siamo più nell'emergenza in realtà, siamo in una fase post-emergenza in cui stiamo appunto investendo per creare il più possibile autonomia in queste persone. Ci auguriamo che alcune, il più possibile, poi riescano a camminare da sole, alcune dovremmo comunque aiutarle anche dopo, avvalendosi di questo fondo di cui parlavamo, e altre avranno difficoltà, entreranno in clandestinità. Solo una persona, una ragazza nigeriana, ha scelto, a seguito del diniego, il rimpatrio assistito, volontario, è tornata a casa un mese fa e abbiamo dato un aiuto perché aspirava a farsi un negozio di parrucchiera giù in Nigeria, quindi ci auguriamo che il suo percorso sia fortunato, aspettiamo le foto del negozio. Abbiamo festeggiato anche due nascite a gennaio, quindi due donne, una Olgiale Comasca e una a Pontigliasso, presso la struttura Casa della Giovane, Protezione della Giovane, hanno dato alla luce due dei bambini. L'ultima cosa che, quindi queste sono le prospettive, l'unica cosa che vorrei sottolineare, visto senza nessuna polemica, però noi ci tenevamo a far sapere che questi ospiti, questi 200 ospiti a Como da un anno ci sono anche nel silenzio della città. La città non sa che esistono questi ospiti, quindi chiediamo aiuto anche a chi si occupa di informazione di aiutarci a dare, non tanto aspettando solo la notizia eclatante, ma raccontando quanto possibile i piccoli passi che pian piano si fanno. Purtroppo nei mesi scorsi sono passate anche notizie un po' tendenziose in cui si venivamo accusati di usare male questi soldi, di usare addirittura male le offerte raccolte in chiesa. Non abbiamo risposto alla polemica perché non è nel nostro stile. Abbiamo fatto ancora altri incontri anche qua, offrendo quelle come occasione di risposta. Anche questa abbiamo invitato le stesse persone, che ovviamente non ci sono, ancora come occasione di risposta. Il dialogo non è facile costruirlo, non vogliamo fare nessuna polemica. Ci sembra proprio strano che da alcuni settori veniamo noi accusati di usare male le offerte in chiesa e poi tutti i giri di diamanti e di oro che c'è in questi giorni mi fa un po' sorridere. Ecco, scusate se chiudo con questa piccola sottolineatura, ma però prego anche i giornali di non far passare solo le notizie che fanno notizia, ma magari anche, diciamo, nei nostri settori diciamo che fa più rumore un albero che cade con una foresta che cresce, no? Quindi qui c'è gente e tanti, sono diversi operatori qua o rappresentanti delle realtà, delle parrocchie che accolgono, che lavorano giorno per giorno per far crescere delle pianticelle, degli alberelli, e quindi raccontiamo anche questa crescita, non raccontiamo solo quell'albero che cade ogni tanto. Lascio la conclusione a Roberto Bernasconi. Volevo solo aggiungere una cosa, scusate, rispetto al discorso dell'asilo. L'asilo politico. Noi riteniamo che comunque la legge sull'asilo non sia adeguata, perché molti dei problemi che sono emersi, perché l'Italia ancora una volta ha una legge sul diritto d'asilo che non contempla tutta la casistica e non è una vera legge. Oltre alle sottoscrizioni di cui parlava Marco prima, il tavolo nazionale dell'asilo, di cui fanno parte anche Caritas e altri, ha fatto un appello unitario al governo affinché vengano messe in atto azioni significative per fare in modo che queste persone abbiano la possibilità di rimanere in Italia con un permesso umanitario, e anche delle modifiche rispetto a questa cosa mi sembrava importante. Quindi ho portato una sola copia, però se mi lasciate le mail ve le mando. Questa invisibilità secondo me è una cosa bella, nel senso che vuol dire che tutte queste persone che sono arrivate qui da noi e che in questo momento vivono in questa parte della città, comunque nella maggioranza, quantomeno si sono integrate nel territorio e non hanno dato occasione di disagi, per cui mi sta anche bene l'invisibilità sotto questo aspetto. Mi sta meno bene l'invisibilità, che vuol dire accantonare un problema e caricarlo ad altri, magari, perché può dar fastidio. Io devo dire che, come bilancio dopo un anno di attività, che è nata un po' così, senza pensarci troppo, perché c'era un problema, questo problema eravamo sicuri sarebbe arrivato anche da noi, e per cui abbiamo detto dobbiamo affrontarlo, dobbiamo avere il coraggio di prenderci le nostre responsabilità fino in fondo. Da problema è diventata una grossa opportunità. Innanzitutto ci ha dato un'opportunità bella di lavorare assieme, ad esempio in questo caso Caritas, ACLI e altre istituzioni, parrocchie e altre istituzioni che già hanno un loro cammino particolare rispetto ad alcuni aspetti di disagio delle persone. E ci siamo accorti che lavorare assieme si può diventare una forza importante, che ha la capacità davvero di risolvere alla radice alcune problematiche. Ad esempio, in questo caso, Caritas, che è specializzata nel volontariato, si è confrontata con ACLI, che invece ha una grossa professionalità, e ci siamo accorti che la somma del volontariato più la somma di alcune professionalità diventano forza davvero. È bello quello che siamo riusciti a fare con la collaborazione con le istituzioni, con i servizi sociali del comune, con la prefettura, e questo ci ha fatto capire che se pubblico e privato sociale si mettono assieme, riescono anche qui davvero a risolvere alcune problematiche e dare un'idea di una città che è accogliente. Perché non è vero che Como non è una città accogliente, noi diciamo sempre o vediamo sempre le problematiche, le fatiche. Si diceva prima, ed è vero quello che diceva il Marco, che c'è stata una grossa resistenza da una parte della città, però io posso dire che posso mettervi sul piatto tutto il numero dei volontari che si stanno interessando di questa problematica, assieme ad altri che si stanno interessando di altre problematiche in città. Posso dire il numero delle parrocchie che si sono messe a disposizione, il numero di istituzioni, la Ponte Chiasso, il COF di Montano, che hanno avuto il coraggio di aprire le loro case per questo servizio di accoglienza. E ripeto ancora una volta, è diventata una opportunità, perché ci ha aiutato ad aprire gli occhi sulle fatiche che il mondo sta vivendo in questo momento, ci ha aiutato ad aprire gli occhi anche sul nostro territorio, sulle fatiche che sta vivendo, e ci sta aiutando a fare delle scelte. Marco prima diceva dei soldi che arrivano, che sono soldi considerevoli. È vero questo, però il cammino che noi stiamo facendo di risparmio rispetto ad un'accoglienza, perché possiamo farlo, perché appunto le comunità, che ho detto prima, sono comunità accoglienti, quindi ci mettono anche del loro, ci permette di avere questa possibilità di un accompagnamento che va al di là della semplice accoglienza, ma nel costruire dei cammini fattibili di recupero. E quindi questo ci dà anche l'idea di come l'uso dei soldi dove ci sono può diventare produttivo e costruttivo se usati bene, sapendo donare anche agli altri quello che invece magari una certa logica ti dice di puoi metterli da parte perché va bene così, insomma. Quindi secondo me è stato un anno magari faticoso, perché è vissuto giorno per giorno, perché non avevamo in tasca le risposte e neanche le prospettive. Ce li siamo costruiti gradatamente, per cui giorno per giorno, rispetto alle problematiche, alle opportunità che ci capitavano, abbiamo costruito una risposta. Ed è un patrimonio che è un po' come quello dei soldi prima, che abbiamo lì a disposizione, patrimonio abitativo, un patrimonio di competenza, che noi pensiamo di poter e di dover mettere a disposizione alla collettività, davvero proprio per far sì che la nostra città riprenda fiato in questo settore e abbia il coraggio davvero di affrontare alla radice alcune problematiche che sono legate anche ad esempio alla grave emarginazione. Non vado fuori dal seminato se dico che ad esempio quest'anno siamo riusciti ad aprire anche in collaborazione con altri enti il discorso del tendone di Santa Bogna, e questo è potuto nascere anche frutto di questa esperienza di accoglienza di profughi, perché ci ha fatto capire che se ci apriamo gli altri, se riusciamo a lavorare assieme, i soldi poi bastano, le possibilità poi vengano e davvero riusciamo a metterla anche delle prospettive costruttive per un governo del territorio che sia migliore di quello che è adesso. Se c'è qualche intervento aggiuntivo o qualche domanda dei giornalisti. Non so se interessa l'esperienza. Penso di sì. Ve lo chiedo poi nell'integrazione. Buongiorno a tutti. In breve l'esperienza del Comune di Como. Come sapete il Comune di Como aveva già attivato un'accoglienza per i richiedenti asilo, per cui appunto avevamo già in essere una convenzione con la Prefettura di Como per ospitare 25 richiedenti asilo nella nostra struttura. Abbiamo risposto prontamente all'emergenza profughi, accogliendo prima tunisini, no? E successivamente appunto i profughi provenienti dalla Libia. La nostra è un'esperienza sicuramente diversa da quella che abbiamo sentito fino ad ora, perché non disponendo di piccole strutture d'accoglienza abbiamo appunto ospitato tutte queste persone, continuiamo a farlo attualmente nel centro di Prestino, per cui il centro si è dotato di una serie di professionalità, di interventi proprio per agevolare l'accoglienza di queste persone e fare il possibile appunto per strutturare un percorso con loro. Pensate soltanto che appunto il centro, oltre al personale di assistenza, si avvale della collaborazione di due insegnanti per la lingua italiana, di un legale per tutte le procedure che riguardano appunto i permessi, piuttosto che appunto quello l'iter burocratico per il riconoscimento dello status di profughi. C'è lo psicologo che in molte situazioni supporta queste persone nell'elaborazione di situazioni che sono state fortemente traumatiche. Abbiamo mediatori linguistici e mediatori culturali, e poi mi aiuti lei se c'è ancora il medico della struttura. Per cui uno staff che supporta l'organizzazione della struttura molto forte. Grazie alla collaborazione con ACLI, alcuni degli ospiti hanno potuto frequentare dei corsi di formazione. C'è da dire che la nostra popolazione è composta unicamente da persone di sesso maschile, e questo comporta appunto una serie di interrogativi anche rispetto al loro futuro. Premesso che io ho una visione del problema che sta affrontando il nostro territorio molto particolare, che è quella del responsabile dei servizi sociali, per cui da noi arrivano le persone che hanno bisogno di aiuto, e quello che rilevo è un aumento costante di persone, sia singole che nuclei familiari con anche minori, che si trovano in una condizione di assoluto bisogno. Con assoluto bisogno intendo dire che hanno perso prima il lavoro e poi la casa, e si trovano appunto nella necessità di avere assistenza a 360 gradi. Questo numero è in costante aumento. Chiedono a noi di avere una sistemazione alloggiativa, di avere un lavoro, e purtroppo quello che rileviamo è che il nostro territorio in questo momento non offre grosse possibilità, non offre grosse prospettive a chi è già qui in regola con un permesso di soggiorno, che ha già un'esperienza lavorativa, che già conosce la nostra lingua. Per cui molto sinceramente ci poniamo il problema di quello che può essere il futuro di queste tante persone che singolarmente andranno, si otterranno appunto tutti i permessi, a cercare un lavoro, a cercare un'abitazione. Mi chiedo quanto il nostro territorio possa accogliere il bisogno di tutti. Tenete conto, e di questo se ne parla molto poco, che il Comune di Como accoglie anche i minori stranieri non accompagnati che arrivano sul nostro territorio. E qua vorrei veramente aprire una parentesi, perché pensate che nel 2011 sono stati ben 51 i minori che sono arrivati da noi, contro i 20 del 2010. Per cui più del doppio. Tenete conto che il più giovane aveva 12 anni, ha 12 anni, 13 quest'anno, no? Gli altri invece arrivano intorno ai 17 anni. Che cosa significa questo? Significa che il Comune di Como è impegnato nell'accoglienza e nell'individuare un percorso di crescita per questi minori fino a oltre il compimento del 18° anno di età. Io sono il tutore di tutti quanti, no? Per cui la mia famiglia si è molto allargata, ma vi garantisco che appunto seguiamo questi minori, li accompagniamo nella formazione, perché ognuno di loro ha una propensione particolare verso una certa attività. Per cui li accompagniamo nella formazione, li accompagniamo nell'individuare un lavoro e una sistemazione abitativa. E anche con loro purtroppo devo registrare una grossa difficoltà nel portare avanti quelli che sono appunto i loro percorsi verso l'autonomia. Addirittura c'è difficoltà oggi come oggi a trovare aziende sul nostro territorio che siano disponibili ad accogliere questi minori con borsa lavoro. Tenete conto che la borsa lavoro garantisce al giovane un contributo mensile sui 400-500 euro, per capirci, ma è un grosso vantaggio per l'azienda, che può avvalersi appunto di risorse lavorative a dei costi praticamente a costo zero, perché la borsa lavoro la paghiamo noi. E sulla partita dei minori stranieri il Comune di Como interviene da quest'anno, da gennaio 2012, totalmente. Fino al 2011 abbiamo avuto contributi sul progetto ANCI che spesava i primi 100 giorni di permanenza qua. Non parliamo poi appunto del fatto dei ritardi con cui riceviamo i contributi sui profughi, siamo ancora in attesa. E questo ben pesa anche sul patto di stabilità dell'ente. Con ciò appunto la nostra disponibilità è quella di andare avanti in questo percorso, di cercare di capire quali saranno le decisioni che verranno assunte a favore di queste persone. Se dovremo continuare appunto a supportarli in questo passaggio, in questo permanere nella nostra, nel nostro territorio, o come dovremo affrontare l'emergenza qualora appunto ci fossero dei diniegi alle loro richieste e quindi ci troveremmo ad avere una grossa fetta di popolazione clandestina, perché purtroppo questa è la realtà. Naturalmente, dicevo, continueremo in questo nostro percorso di accoglienza. È fondamentale comunque poter avere la collaborazione di tutti quanti. Continueremo ad auspicare la preziosa collaborazione di ACLI, di Caritas, proprio nell'individuare con loro dei percorsi che possano appunto supportare queste persone per un possibile inserimento lavorativo. Vedremo di sensibilizzare il più possibile quelle che sono appunto le aziende del territorio per poter appunto impiegare, se sarà possibile, queste persone in un lavoro. Non so se il dottor Capiati vuole integrare con qualche altro dato più preciso rispetto a quelli che sono i numeri degli ospiti che attualmente abbiamo nella struttura. Dopo l'intervento suo e il loro intervento non si può più niente da dire, devo solo dire che è sfuggito che noi ne abbiamo lì 95 nella struttura di Prestino, quindi noi abbiamo richiedenti asilo, che era una convenzione, poi abbiamo i profughi della Libia che sono 43, e poi abbiamo 25 minori. C'è poco altro da dire. Mi riferisco soprattutto a quello che ha detto la Molteni, che dice noi non siamo qui solo per accogliere, da mangiare e da bere. Sono d'accordissimo, perché non, cioè, a questi ragazzi qui, se non gli fai fare qualcosa, non c'è un sorriso da parte loro, è tutta gente che si chiude perché capisce che non ha sbocchi. Quindi noi dobbiamo cercare di aiutarli, lo stiamo facendo, con la scuola, con la collaborazione loro per i corsi. Infatti io ho qui dei dati, 5 ospiti il corso di cucina, 2 ospiti il corso di falegnameria, 25 ospiti vanno all'EDA, 5 ospiti si sono iscritti proprio l'altro giorno al corso di giardinaggio e poi 5 ospiti vanno dall'amico Don Giusto a fare la scuola di italiano. Quindi stiamo cercando in tutti i modi di allargare questa nostra assistenza. E non sottovalutare anche la futura squadra di calcio che probabilmente riuscirà a fare anche. Infatti proprio ieri sono andato a comprare le scarpe da calcio perché c'è qualcuno che organizza i tornei e chiaramente bisogna dare anche le scarpe da calcio a questi ragazzi. Ecco, noi su 43 profughi della Libia abbiamo avuto 23 dinieghi, quindi 23 che non hanno ricevuto asilo politico, quindi cosa vuol dire? Che fanno ricorso. Quindi vuol dire gli avvocati che ingolfano i tribunali, insomma un disastro. Tra gli altri ci sono 2 che hanno ricevuto come rifugiati lo status di rifugiati, 4 la protezione sussidiaria e 8 l'umanitario. Gli altri pochi non hanno ancora ricevuto risposta dalla Commissione. Quindi questo è un po' il succo. Noi cosa facciamo poi, oltre a quello che fa il Comune di Como che ci ha dato in gestione questa roba? Noi cerchiamo di intervenire, poi quando sarà il momento che devono affittarsi la casa, che trovano un lavoro, eccetera, bisogna intervenire per dargli un po' di fiato, no? Perché se questo qui non ha mai lavorato, nessuno gli dà la casa, se non ha permesso il soldo, nessuno gli dà la casa. Quindi noi interveniamo come sostegno per i primi mesi dell'affitto che eventualmente trovano da pagare. Questo è il nostro compito. Io lavoro con 15 operatori che sono con me ormai da 15 d'anni, quindi pensiamo di avere un minimo di esperienza, e questo rapporto di collaborazione che c'è con Caritas e Acri ci aiuta sicuramente nel miglioramento del nostro servizio che diamo. Il Comune di Como, per quanto mi consta, che non ha ancora ricevuto un soldo, l'ho detto stamattina, devo dire che sta prestando veramente, da parte della dottoressa Gualdoni, un'attenzione a questi problemi, che non è una cosa che si trova dappertutto. Io per questa roba qui, quando arrivano i profughi, quando arrivano i minori, mi telefono e mando un pacchetto, però non ho mai sentito il Comune di Como a dire no, non prendiamo nessuno, perché anche se non c'è posto, ogni tanto lo mettiamo in lavanderia, sì, ma lo prendiamo. Non rifiutiamo nessuno, perché comunque è fondamentale l'accoglienza, soprattutto quando si tratta di minori, perché ecco, tenete conto che mentre per i profughi c'è stata, parliamo di un'equa distribuzione sul territorio, i minori, visto che vengono riconosciuti dalla questura di Como, vengono affidati tutti quanti al Comune di Como, cioè non ce n'è uno a Fino Mornasco, uno a Grandate, un altro a Cernobbio, no, sono tutti su Como. Vorrei fare solo un piccolo inciso riguardo ai lavori socialmente utili. Noi abbiamo avuto la disponibilità dei profughi a svolgere questi lavori socialmente utili e voi sapete che hanno collaborato quando c'è stata la nevicata, la piccola nevicata, per pulire marciapiedi, così. Il problema è che noi abbiamo molti servizi esternalizzati, cioè dati in gestione, per cui noi potremmo avvalerci della collaborazione dei profughi su servizi ma gestiti direttamente da noi. Da qui un po' la difficoltà ad impiegarli all'interno dell'amministrazione comunale, no? Però stiamo vedendo anche su questo, magari appunto sulla manutenzione del verde dopo che faranno il corso, anche perché si tratta comunque di utilizzare degli strumenti di lavoro che potrebbero essere pericolosi, per cui è fondamentale che a monte ci sia almeno una preparazione di base su questo. E questo apre però un altro piccolo problema, che è il rapporto tra i profughi che ci sono stati mandati e la gente che vive la grave emarginazione in città, che sono d'accordo anche con la dottoressa, sta aumentando comunque sempre. Per cui tante volte c'è un conflitto tra di loro, perché i profughi per certi versi sembrano comunque delle persone privilegiate, perché hanno la possibilità del dormire, del mangiare, e gli stiamo dando anche tutto questo tipo di possibilità. Noi nel limite del possibile, attraverso i nostri uffici porta aperta eccetera, cerchiamo anche di aiutare gli altri in queste fatiche, però i numeri aumentano e quindi diventa sempre più difficile, e comunque dobbiamo far capire a uni e agli altri, che ai profughi, che non è la loro sistemazione qui all'infinito, per cui si possono sedere sugli allori, che tanto alcuni servizi fondamentali ci sono, ma quello non lo stanno facendo, però bisogna portarli a capire questo. E agli altri, che non è che li lasciamo soli, ma nel limite del possibile si cerca di aiutare anche loro, però la coperta diventa sempre più stretta, e quindi è difficile poi anche... E un'altra cosa che devo dire, cioè... quando il Comune di Como 10 anni fa ha accolto 500 minori, diciamo che il 90% sono stati inseriti, però questi 500 ex minorenni che adesso stanno facendo la loro vita eccetera eccetera, non è, sì, sono autonomi, però hanno sempre mantenuto il contatto con noi, quindi la nostra cooperativa e il coordinamento comasco profughi immigrati svolge ancora questo tipo di lavoro, perché hanno sempre bisogno comunque d'aiuto. Quindi abbiamo questi 50 minori, questi 500 che sono diventati maggiorenni, ma che per tante volte sono ancora dei minorenni. Poi un'altra fetta di minori è ospitata al centro Pasol, che è ancora tavernola, e che funziona pienamente con alla massima capienza con 22 ospiti. Scusi, ma chi entra da minore e poi rimane automaticamente, cioè chi viene registrato da minore poi ottiene il diritto a rimanere anche una volta che diventa maggiorenne? Se appunto è stato, adesso la nuova normativa prevede la possibilità di avere il prosieguo amministrativo, se la permanenza sul nostro territorio è stata di almeno un paio d'anni, perché questo presuppone che il minore sia stato accolto e seguito anche con un programma di formazione e di sostegno all'autonomia, per cui il prosieguo amministrativo viene dato dal Tribunale dei Minori di Milano su un progetto ben specifico che viene presentato appunto dai servizi sociali ed elaborato insieme ai responsabili della comunità. È il tribunale che deve avallare questo progetto e il minore o neo maggiorenne deve attenersi a questo progetto. In mancanza del prosieguo amministrativo, in mancanza di un lavoro, anche il neo maggiorenne si troverebbe in uno status di clandestino, no? Per cui appunto noi sosteniamo questi neo maggiorenni con il prosieguo amministrativo, soprattutto appunto quelli che hanno fatto un percorso forte insieme a noi all'interno delle nostre strutture. Anche se purtroppo, ritorno a dire, oggi come oggi diventa sempre più difficile trovare loro un lavoro e quindi una sistemazione abitativa perché possano rendersi completamente autonomi. Qualche altra domanda? Io ho un paio di domande veloci. Per il pubblico non volevo capire come mai i fondi non arrivano, c'è una questione... Evidentemente prima la Protezione Civile ha erogato i fondi ai privati, chiamiamoli così, speriamo che in un prossimo futuro di poter avere anche noi la nostra parte. La manco a quanto, che somma stiamo parlando? Parecchio. Parecchio. Qualche centinaio, perché l'anno scorso. Calcolo che noi ci siamo pagato fino a ottobre, non è che siamo puntuali. E un'altra cosa, sulle itinerari che erano arrivati con il primo gruppo di guidini, se non sbaglio è stato fatto il permesso di 6 mesi, poi rinnovato forse per altri 6 mesi, no? Che dovrebbe essere scaduto. Sì, perché c'è stato un rinnovo automatico per appunto per i tunisini. Comunque noi abbiamo avuto un caso di un tunisino che ha trovato lavoro, intanto ha trovato quasi subito in Luciana, e gliel'hanno tramutato il permesso di lavoro, quindi non un lavoro umanitario ma un permesso di lavoro in tutti gli effetti. Quindi fino a ottobre quello umanitario, invece fino a fine dicembre quello... No, sono due gestioni diverse. I tunisini sono la prima tranche che è arrivata e hanno avuto un permesso umanitario di default, diciamo. Tutta l'altra partita della Libia invece non ha avuto nulla, ma anzi sono stati inseriti con questa richiesta di asilo politico che ci sta creando più problemi. Ma se arrivi in Diego può rimanere finché fa il corso, finché c'è... La procedura del ricorso gli permette di rimanere, potenzialmente anche di lavorare, ma ovviamente nel momento in cui avesse una risposta negativa si chiude tutto e devo tornare a casa. Però i soldi al momento ci sono comunque solo fino al 2012. La copertura finanziaria? Probabilmente no, non credo che riusciranno a rinnovare, sarà difficile giustificare un'emergenza che si protrae per oltre 2 anni, non è già oggi più un'emergenza, dovrebbero aiutarci a uscire dall'emergenza facilitandoci anche in qualche piccolo passaggio. Tenete conto che ottenuto lo status, facciamo questa ipotesi, hanno la possibilità di rimanere all'interno dei centri ancora 1 mese, poi devono uscire, si presuppone che in questo mese riescono a trovare lavoro e alloggio. Noi speriamo che in questo anno, cioè in questi mesi che ci rimangono, di provare a piazzare qualcuno, ma realisticamente vista la crisi che c'è, sarà molto, molto dura. Dal nostro punto di vista significa anche dal 1 gennaio che ci escono dalla porta e rientrano dalla finestra, quindi li avremo comunque sul territorio da tutti i servizi che abbiamo e saremo da capo. Ma c'è la circolare della protezione civile è abbastanza difficile da interpretare, no? Perché c'è il prolungamento dello stato di emergenza fino al 31/12/2012, però per i ricorrenti dice fino alla fine dell'iter giudiziale. Dice la Stiamo viaggiando a vista comunque, ci sono tutte queste indicazioni, ci dobbiamo costruire delle risposte man mano e spesso le risposte dobbiamo costruircele indagando ma senza averle. Banalmente nella ricerca del lavoro ci sono agenzie o anche enti pubblici che richiedono la carta d'identità, mentre per legge ci viene detto che basta il permesso di soggiorno. Basta, per cui noi giornalmente troviamo ostacoli burocratici di interpretazione che solo barcamenarsi in queste... Basterebbe la ricevuta del permesso di soggiorno, in teoria. Poi ci scontriamo davanti a situazioni allucinanti. Stai facendo ancora... No, è solo una cosa veloce, però. Per quanto riguarda i corsi, eccetera, si era parlato tempo fa di un potenziamento dei servizi anche per spiegare le pratiche in maniera più rapida, è stato fatto a livello di commissione a Milano, eccetera. Cioè, quanto ci vorrà per i ricorsi e per tutto questo? Per i ricorsi. Che croce. Anni, mesi? Tipicamente i ricorsi durano anni. Le primi colloqui li stiamo avendo a breve, nel giro di un mese, fanno il primo colloquio, ma che tipicamente adesso sta rimandando già un colloquio successivo a giugno, cioè quindi stanno già rimandando. Sicuramente c'è anche una questione di lavoro rispetto a tutta l'apparato giudiziario a Milano. Ci ne può anche dispiacere, però non abbiamo fatto la scelta di essere incastrati. Io farei già un ringraziamento a chi ci sono qui dei rappresentanti di alcuni enti, poi c'è anche Don Giusto in particolare che ci rappresenta tutti, un ringraziamento agli enti che hanno fatto l'accoglienza e anche alle operatrici della cooperativa Questa Generazione delle Acri che hanno messo la grossa professionalità in tutti quelli che sono gli inserimenti lavorativi, l'accompagnamento psicologico e tutti gli aspetti importanti per accompagnarli. Don Giusto? Una piccola nota, so che si tratta di un problema vasto e grande. Una delle possibili soluzioni potrebbe essere quello di un rimpatrio. Ovviamente un migrante che torna a casa, se ha 4 soldi in tasca, ci torna volentieri. Se torna a casa senza niente è una vergogna assoluta e uno preferisce restare in Italia, vivere in condizioni molto precarie, mendicando a destra e a sinistra come fanno tante persone. Io credo che una buona gestione di quanto lo Stato dà permetta anche di aiutare coloro che vogliono rimpatriare oppure coloro che vogliono organizzarsi per andare altrove, in Francia, in Germania e così via. E penso, è una fetta molto limitata questa dei profughi del Nord Africa, però penso che in questo caso ci siano abbondanti spazi per pensare a dei percorsi individuali che portino anche a dire ma non è meglio che tu torni a casa tua, in Nigeria con 2.000-3.000 euro uno può avviarsi tranquillamente un'attività produttiva che gli permetta di vivere bene. Ecco, penso che la gestione Caritas ACLI permetta di fare questo discorso in prospettiva, la gestione comunale non penso permetta grandi prospettive in tal senso. Su questo secondo me bisognerebbe discutere. Da questo punto di vista no, però potrebbe essere appunto una scelta a livelli alti del governo, per cui dire noi arriviamo fino qui, per chi decide entro questa data può avere per esempio un contributo per il rimpatrio. Lo sappiamo bene anche noi che proprio perché il rimpatrio avviene nel paese di origine, quindi non la Libia, queste persone sono poco disponibili a fare rientro a casa. Noi diamo anche il pocket money, per cui seppure non sia una grossa cifra, però queste persone potrebbero anche decidere di metterli da parte per incominciare a fare un loro piccolo risparmio. Ma parliamo di 70-80 euro, che non servire anche per telefonare a casa o per... Però... abbonamento al bus, che sì, costa 30 euro, questo è un discorso da fare, a livello governativo. Se noi pensiamo che prendono, sì, stanziare il governo italiano 40-45 euro al giorno, sono 1400 euro al mese. Se noi gli diamo 3 mesi per mandarli a casa, forse sarà una scelta di governo. Non è un rimandiamoli a casa loro, attenzione, ma è il tenere in piedi più percorsi dignitosi, perché queste persone possono costruirsi un futuro. Quindi poi la scelta rimane comunque volontaria della persona. Però se gli offriamo 4-5 mila euro potremmo costruire una risposta. Un'altra risposta che potrebbe essere costruita è quella di riaprire il canale con la Libia, per cui molte persone sarebbero disponibili a tornare a lavorare, anche se i livelli di lavoro, di guadagno non sarebbero quelli italiani, ma anche lì c'è opportunità, probabilmente ci vorrebbero essere opportunità e anche il costo della vita sarebbe molto buono. Erano già lì e sanno già dove tornare. Volevo soltanto sottolineare il fatto che una nostra ospite ha fatto la scelta del rimpatrio, sì, e ha deciso di ritornare in Nigeria, è indicato nella... Io sono la presidente della Casa della Giovane di Pontechiasso, per chi non mi conoscesse. Ha deciso di tornare in Nigeria, insieme a Caritas abbiamo consentito a questa sua richiesta, andrà lì e aprirà un negozio di parrucchiera. Vediamo se è giù. Vediamo. È partita così. Vediamo è partita soldi, lì e ci ha risposto ed era lì. Le ultime notizie. Le ultime notizie sono queste, che era lì. E aprirà un negozio e quindi potrà costruirsi una vita autonoma. Ha avuto un contributo dalla Caritas, però ha avuto anche un contributo personale di nostri volontari, per cui ha potuto, in questa rete di solidarietà, ha potuto andare e quindi costruirsi una vita autonoma. Lei ha avuto il diniego e quindi ha fatto bene a fare questa scelta. Un secondo evento è citato in relazione: noi attualmente ospitiamo una mamma con un bimbo appena nato e che, ahimè, il bimbo ha qualche problema di salute e quindi lo stiamo accompagnando anche nella sua situazione di difficoltà. Sicuramente l'essere diventata mamma per questa donna è stato un fatto positivo, perché ha potuto, così ha cambiato atteggiamento, ha cambiato carattere, nel senso che è molto più disponibile a farsi aiutare proprio per il suo bambino, perché prima aveva qualche difficoltà. E abbiamo ancora qualche caso da definire, in quanto non sappiamo chi interverrà in termini economici per una ospite che da noi dall'anno scorso, per la quale abbiamo iniziato un progetto di autonomia e, diciamo, un progetto anche di formazione, perché sta frequentando un corso per ottenere il titolo di ASA e poi poter inserirsi nella nostra realtà. Altro. Sono avvocato La Maruccia, faccio parte del gruppo di legali che insieme a Caritas sta seguendo i corsi. Due precisazioni: la prima è questa, che tutti i propri per i quali abbiamo chiesto il ricorso sono stati ammessi al gratuito patrocinio, per cui non si stanno impegnando risorse che sono già a loro disposizione tramite le associazioni. La seconda cosa è che si tratta di una procedura sommaria e che quindi non ha una, in teoria non dovrebbe avere una durata lunghissima. Quello che voleva dire prima Marco è che in prima battuta, la prima udienza, e se, avendo anche difficoltà di traduzione, siccome il Tribunale di Milano non mette a disposizione dei traduttori, bisogna rinviare la prima udienza e quasi tutti i rinvii stanno andando a dopo l'estate. Dopodiché però la procedura dovrebbe avere un'accelerazione. Si può ipotizzare che da quando depositi il ricorso a quando finisce abbiamo stimato un anno e mezzo circa di causa. Dopodiché bisogna decidere se presentare un reclamo in caso di diniego, perché molti sono difficilissimi da portare avanti questi ricorsi, proprio perché, come diceva Marco, il richiedente asilo politico deve avere un motivo particolarmente personale nel paese di origine. Quasi tutti invece hanno motivi economici per cui si trovano qua, ci hanno perso lavoro in Libia. Anche la gestione a livello governativo che è stata fatta per i tunisini e questa differenziazione che è stata fatta invece per i profughi della Libia è uno dei motivi che abbiamo ricalcato all'interno del ricorso, perché ci sembra una disparità di trattamento assolutamente ingiustificata. Anzi, volendo vedere, la guerra in Libia è forse ancora più grave degli avvenimenti che sono accaduti in Tunisia e che hanno portato questi ragazzi a morire. Ecco, sono due informazioni un po' più precise rispetto all'iter giudiziario. Se c'è qualche altra domanda, altrimenti possiamo anche, mi sembra che abbiamo... No, una domanda a Mirina, che quando la ragazza nigeriana ci manda la fotografia con le ricorso, va bene, va bene. Va bene. Grazie a tutti e buona continuazione. Arrivederci. Grazie.